Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Il Consiglio dei Ministri rinvia l'approvazione delle norme anticorrotti, il richiamo di Fini sulle inchieste, le procedure non sono orpelli. Decreto emergenze, oggi il sì, ma il governo è andato sotto 3 volte. Industria, ordini e fatturato in ripresa a dicembre, euro ai minimi e borse in calo dopo il rialzo dei tassi della Fed. Sanremo ancora premiato dagli ascolti, ma sui giovani in gara è polemica. Buona giornata dalla redazione da Narita D'Ambrosio. La risposta del governo all'inchiesta sugli appalti e alle grandi opere che coinvolge anche Guido Bertolaso in primo piano. In Consiglio dei Ministri doveva arrivare l'ok ad un inasprimento delle norme anticorruzione, ma la discussione è stata solo avviata. In diretta la nostra Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, qualcuno la definisce una intesa a metà. Il Consiglio dei Ministri infatti ha trovato solo una prima bozza modificabile del disegno di legge anticorruzione annunciato ieri da Berlusconi. Dunque slitta l'approvazione del provvedimento vero e proprio, ma la volontà politica c'è di inasprire le pene per chi commette reati contro la pubblica amministrazione. Il Consiglio dei Ministri, secondo quanto si è appreso, avrebbe deciso di procedere suddividendo in 3 capitoli le misure presentate. Quelle relative all'inasprimento delle pene saranno di competenza del Guardasigilli di Alfano, dell'incompatibilità e ineleggibilità dei condannati si occuperà invece il ministro della semplificazione Calderoli, mentre il titolare della pubblica amministrazione studierà misure di efficienza che facciano dal filtro al diffondersi della corruzione. Via libera invece al codice dell'amministrazione digitale, una riforma per favorire la digitalizzazione della macchina amministrativa, meno carta, più tecnologia, con risparmi di 200 milioni di euro per le sole raccomandate. Disco verde infine al divieto per le minorenni di rifarsi il seno per motivi esclusivamente estetici. Da Palazzo Chigi è tutto, a voi la linea. Grazie Alessandra. Le reazioni politiche adesso con Vincenzo Miglietta. Delle inchieste ha parlato oggi anche Fini. Vincenzo. Sì, buongiorno. Una battaglia, quella contro la corruzione, che trova un fronte compatto da parte di tutte le forze politiche. È il provvedimento sul tavolo di Palazzo Chigi che divide però maggioranza ed opposizione. Per il centrodestra valgono le parole pronunciate da Berlusconi in questi giorni, le norme vanno inasprite, è il suo ragionamento, ma non c'è, garantisce il Premier, un ritorno di Tangentopoli, anche perché secondo il Premier tutti i partiti hanno il finanziamento pubblico e dunque si tratta di fatti personali. Secondo il capogruppo Gasparri è giusto che il governo interpreti un'ansia di trasparenza e di maggiore rigore attraverso un disegno di legge che ha l'obiettivo di inasprire le sanzioni. Dall'opposizione si mostra scetticismo su quanto studiato dal governo e la posizione del Partito Democratico con Bersani, ma anche dell'UDC con Casini. Ascoltiamo quest'ultimo. Ho una grande paura che la lotta contro la corruzione faccia la fine del piano casa, un ennesimo spot. C'è troppa gente che ruba, solo e semplicemente. Va sgominata perché la credibilità dei partiti e della politica deve essere messa in discussione. Sul tema corruzione interviene dall'Aquila, dove in visita il presidente della Camera. Nell'assegnazione degli appalti, dice Fini, deve essere assicurata l'imparzialità delle procedure e la celerità delle stesse. Da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo. E l'altro fronte politico caldo è il decreto emergenze, che oggi deve avere il sì di Montecitorio. Tra mezz'ora il voto finale, ma il governo ha avuto qualche problema. In diretta Andrea Viali. Annarita, è così, in questo momento sono in corso le dichiarazioni di voto, il voto finale è atteso attorno alle 13:30, non dovrebbero esserci sorprese, anche se in mattinata, come dicevi, governo e maggioranza sono stati battuti su 3 ordini del giorno presentati dall'opposizione. Ieri, lo ricordiamo, il governo ha deciso di non mettere la fiducia sul decreto, dal quale dopo la norma sulla protezione civile SPA è stata cancellata anche quella sullo scudo processuale per i commissari alle emergenze, modifiche chieste dall'opposizione che oggi voterà comunque contro il provvedimento. Sentiamo Franceschini del Partito Democratico. Abbiamo ottenuto 2 cose importanti, ma non possiamo votare il decreto soprattutto perché ci hanno detto di no alla cosa più rilevante, e cioè la distinzione definitiva tra i grandi eventi, le manifestazioni culturali o sportive, e le catastrofi naturali, cioè le alluvioni, i terremoti. All'opposizione, che è comunque soddisfatta per le modifiche al testo, replica così Cicchitto del Popolo delle Libertà. Chi si contenta gode. Noi portiamo a casa il riconoscimento a Bertolaso del ruolo che ha svolto, il riconoscimento alla Protezione Civile di essere una delle strutture migliori che questo Paese ha, un'azione che ha riparato i guasti che la sinistra ha fatto in Campania, l'azione fatta in Abruzzo. Una volta approvato qui a Montecitorio, il decreto emergenze tornerà in Senato per il via libera definitivo e dalla Camera è tutto, linea allo studio. Grazie Andrea, lo avete sentito, anche Cecchitto si riferiva al caso Cosentino che ha provocato una vera e propria bufera in Campania. Le doppie dimissioni di Nicola Cosentino da sottosegretario all'economia e da coordinatore campano del PDL hanno scatenato un vero e proprio terremoto nel partito. Il presidente del Consiglio Berlusconi ha respinto le dimissioni e da più parti si chiede a Cosentino di tornare sui suoi passi, sia pure con accenti diversi che lasciano trasparire divisioni. Cosentino ha deciso di lasciare gli incarichi criticando apertamente l'alleanza tra PDL e UDC, da lui definita una vittoria della vecchia politica. Finito sotto inchiesta per concorso esterno in associazione mafiosa, il sottosegretario aveva già visto naufragare l'ipotesi di una sua candidatura alla presidenza della regione e anche dopo la bocciatura da parte della Camera della richiesta di arresto avanzata dalla Procura di Napoli, aveva incassato una serie di sconfitte interne fino alla decisione del PDL di candidare contro il suo parere l'esponente dello scudo crociato Domenico Zinzi alla presidenza della provincia di Caserta. Decisione inaccettabile per Cosentino, che in quel territorio da sempre considerato suo feudo aveva lanciato la candidatura del senatore Pasquale Giuliano. Da qui le dimissioni duplici e irrevocabili. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Alle intercettazioni era dedicato il nostro sondaggio di oggi. In un diario in cui sta raccogliendo pensieri sull'inchiesta che lo riguarda, Denis Verdini le definisce una maialata. Sono le intercettazioni spiattellate sui giornali che per il coordinatore del PDL espongono, ancor prima che a eventuali responsabilità penali, a un'inquisizione dell'opinione pubblica. Ma i nostri ascoltatori la pensano chiaramente. Le intercettazioni che in questi giorni esondano dai giornali vanno pubblicate. La pensa così il 61% di voi. Qualche critica non la risparmia all'onorevole Gaetano Pecorella, avvocato di Berlusconi. Io sono contrario alla sanzione penale per tutto ciò che riguarda la libertà di stampa, però io dico è difficile liberarsi dalla gogna mediatica. Si immagini i figli che vanno a scuola, i figli di Bertolaso oggi, la moglie di Bertolaso oggi. Bianconero torna lunedì mattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. La decisione della Fed di alzare il tasso di sconto pesa sulle contrattazioni nelle principali borse europee, così come è avvenuto per quelle asiatiche. Piazze dunque in calo ed effetto immediato anche sul mercato dei cambi con il rialzo del dollaro sull'euro. L'altra notizia importante riguarda i dati sul fatturato e gli ordini attivi dell'industria a dicembre che confermano l'avvio della ripresa. I dati sono stati commentati poco fa da Bari dalla presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Da Bari oggi andrà in onda Focus Economia e noi ci colleghiamo con Simone Spezia. Simone, il convegno organizzato nell'ambito del centenario di Confindustria si terrà nel pomeriggio. Intanto ci sono questi dati importanti. Simone. Sì, buongiorno Annalita, buongiorno agli ascoltatori. Allora, iniziamo dai dati. Ci sono i dati del 2009 complessivi che erano in qualche misura attesi, sono naturalmente molto negativi. Un calo del 18,7% per il fatturato dell'industria italiana rispetto al 2008, un calo del 22,4% degli ordinativi. E come già dicevi tu da studio, però c'è qualche segnale positivo, perché gli ordini dell'industria a dicembre sono cresciuti del 4,7% rispetto a novembre e del 10,1% rispetto a dicembre 2008. Bene anche il fatturato, aumentato a dicembre dell'1,9%. Come già si diceva da studio, su questo è intervenuta la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Anche lei ha detto che fondamentalmente questi dati, soprattutto quelli sull'intero anno, erano attesi. Per quanto riguarda questi lievi miglioramenti, ha parlato la Marcegaglia appunto di piccoli miglioramenti che fanno prospettare sostanzialmente una ripresa ancora lenta. Sul fronte dell'occupazione ha detto ci saranno da gestire nei prossimi mesi delle fasi difficili di ristrutturazione. Altro tema è quello di a cosa sono dovuti questi dati positivi, che sono dovuti prevalentemente all'ultima fase degli incentivi per l'auto. La produzione, il fatturato dell'auto è cresciuto di circa il 50%. altrettanto quasi hanno fatto gli ordini. La Marcegaglia, la Presidente di Confindustria, ha detto adesso è il momento di ragionare su altri settori che hanno sofferto tanto quanto l'auto, mentre invece sul fronte degli incentivi auto, insomma, c'è ormai una tendenza europea a cancellarli o quantomeno piano piano ad uscirne. Di questo tra l'altro si discute oggi tra i ministri dell'industria europei. A te Anna Rita. Grazie Simone. Blocco stradale in via di rimozione da parte degli operai dell'Antonio Merloni a Fabriano in provincia di Ancona. In diretta Daniele Morini. Sì, in realtà il blocco è stato rimosso intorno alle 12.30, il rompete le righe nei vari presidi, appunto è arrivato poco più di mezz'ora fa, erano diverse centinaia gli operai ma anche i loro familiari che bloccavano dalle 9 di questa mattina la superstrada 76 Perugia-Ancona. Pensate che avevano creato sia nel versante umbro che in quello marchigiano circa 20 chilometri, oltre 20 chilometri di code tra mezzi pesanti e mezzi leggeri, con al centro appunto lo svincolo di Fabriano Est. Fabriano, una cittadina marchigiana quasi al confine con l'Umbria, dove appunto ci sono i due stabilimenti della Antonio Merloni che dall'ottobre del 2008 è in amministrazione straordinaria controllata. I vari presidi ora sono stati rimossi, gli operai stanno muovendosi lentamente a piedi verso i due stabilimenti. Lo ricordiamo, si tratta di circa 6-8 mila operai, persone tra diretti e indotto, che rischiano il posto di lavoro. A maggio scadrà la cassa integrazione e si sta decidendo, una vertenza ormai diventata nazionale, si sta decidendo il destino di questa azienda marchigiana. A voi studio. Grazie Daniele. C'è stato un incidente sul lavoro a Roma in località Sette Cammini. Un operaio di 38 anni italiano è precipitato dal tetto di un capannone di una ditta di imballaggi. L'uomo ha battuto la testa dopo un volo di 10 metri. Parliamo di stupefacenti. Ieri l'annuncio che c'è un caso positivo fra i 232 parlamentari che a novembre hanno effettuato il test antidroga. Oggi conferenza stampa del sottosegretario Giovanardi in diretta. Chiara Di Michele. Sì, buongiorno. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta alla scuola di perfezionamento delle forze di polizia, il sottosegretario Giovanardi ha colto l'occasione per ribadire alcune sue dichiarazioni apparse anche oggi su alcuni quotidiani. Giovanardi ha detto: abbiamo efficacemente dimostrato che il Parlamento non è una fumeria d'oppio. La droga sta nei quartieri poveri come a Scampia, nei quartieri alti di Milano, può esistere in Parlamento come negli uffici di professionisti, imprenditori, nel mondo dello spettacolo. L'importante è che il governo dimostri di voler combattere questo pericolo ovunque si annidi, senza fare sconti a nessuno. Il sottosegretario ha poi ribadito di non avere la più pallida idea di chi possa essere il parlamentare risultato positivo al test. Può essere un uomo, una donna, un deputato o senatore. Poi ha ricordato che sono più di 140 i deputati e senatori che hanno approfittato per far sapere al pubblico che sono negativi, e poi ha detto: non sono stati al gioco di far pensare che il Parlamento è una fumeria d'oppio. Giovanardi poi si è detto favorevole al test obbligatorio per i parlamentari. Se verranno presentati progetti di legge in questa direzione, li sosterrò con convinzione. E infine Giovanardi è tornato a citare il caso Morgan. Ci ha tenuto a precisare che il caso del parlamentare risultato positivo al test è ben diverso, perché Morgan ha fatto un elogio alla droga. È tutto, restituisco a voi la linea. Grazie Chiara. Ed il caso Morgan, che ha caratterizzato l'avvio del Festival di Sanremo, è davvero un ricordo lontano. La kermesse targata Clerici piace, ascolti ancora altissimi e polemiche però sui giovani in gara. Oltre 10 milioni di telespettatori, 46% di share, anche la terza serata del festival è andata benissimo. Conduttori e organizzatori contenti con le dichiarazioni soddisfatte di rito. Non si spengono però le polemiche che, si sa, se non ci sono vanno inventate. Ma questa volta l'incidente diplomatico, anzi discografico, c'è stato, con una giovane in gara che non si è potuta esibire perché minorenne ed era passata mezzanotte. Arrabbiati discografici, Enzo Mazza, presidente FIMI. Prima del festival anche l'organizzazione, la RAI in genere, fa affermazioni di principio sul fatto che i giovani siano la parte più importante, che bisogna fare ricerca, che bisogna lanciare nuovi talenti. E poi capitano gli episodi come quello capitato a Jessica Brando, dove effettivamente siamo in presenza di una superficialità enorme. A sorpresa, Jessica Brando, dove non ci sono ore. Avete visto, è la ragazzina di 15 anni che non ha potuto essere sul palco stasera. Evidentemente, sono convinta, il pubblico a casa ha voluto premiarla in qualche modo. Per la ragazza è stato trasmesso il video delle prove, così è stata promossa dal televoto e si sono arrabbiati gli altri. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore, Sanremo. Le 13:20, buona giornata ancora dalla redazione da Anna-Rita D'Ambrosio. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato del Consiglio dei Ministri che ha rinviato l'approvazione delle norme anticorrotti. Si è iniziata la discussione su questo tema. C'è stato però dall'Aquila il richiamo di Fini in relazione alle inchieste che hanno riguardato il G8 della Maddalena ed in genere i grandi eventi. Le procedure, ha detto Fini, non sono orpelli. Abbiamo parlato anche del decreto emergenza. Tra pochissimo arriverà il sì di Montecitorio, ma il governo è andato questa mattina sotto 3 volte. Abbiamo parlato di industria perché ordini e fatturato sono in ripresa a dicembre. Euro intanto ai minimi e borsa in calo dopo il rialzo dei tassi della Fed. Abbiamo parlato anche di Sanremo, premiato anche nella terza serata dagli ascolti. E adesso però c'è la notizia che vi avevamo anticipato, arriva da Torino, è una notizia inquietante sulla quale non ci sono ancora moltissimi dettagli. Si tratta di una bomba trovata con la miccia innescata poco lontano dal Palazzo di Giustizia di Torino. Conteneva 0,5 chilo di gelatina di tritolo e diversi bulloni, questo pacco bomba che è stato trovato per la precisione in via Principe d'Acaia, nei pressi di una agenzia immobiliare, il cui titolare ha avvertito i carabinieri. L'ordigno era avvolto in un giornale, lo ripetiamo, la miccia era accesa e non è esploso il pacco perché c'è una violenta pioggia su Torino e questo ha impedito l'esplosione. Non ci sono state sulla zona, ovviamente ci sono gli artificieri, la fermata della metropolitana è stata chiusa per un po' di tempo, adesso il traffico è tornato regolare, è stata riaperta proprio poco fa, non ci sono state rivendicazioni. Ulteriori dettagli dunque su questa notizia, su questo ritrovamento inquietante a Torino nel corso delle prossime edizioni. Adesso parliamo dello sciopero nei trasporti. Maria Chiara Grandis a Roma, dove ci sono stati disagi. Con lei però facciamo anche un quadro generale. Maria Chiara. Sì, buongiorno. Iniziamo dunque da Roma, dove sta tornando alla normalità la situazione del trasporto locale dopo lo sciopero che è iniziato alle 8:30 di questa mattina. Chiusi i cancelli della metropolitana, fermi i treni delle ferrovie urbane. Meno problemi per chi si è spostato in autobus o in tram, perché è stata infatti regolare circa una corsa su due. Come in tutte le altre città, termina invece fra meno di un'ora lo stop del personale delle ferrovie dello Stato. Alla stazione Termini i maggiori disagi hanno riguardato i passeggeri dei treni regionali. Lunghe code anche per prendere il taxi, sentiamo. Regionale. È in ritardo? Di 50 minuti. No, al momento non sappiamo niente. Non è fuori ancora il nostro binario. Dove dovete andare? Noi dobbiamo andare a Ferrara. A Civitavecchia. È in ritardo il suo treno? Purtroppo. Lei aspetta il taxi da quanto? Poi conto 40-45 minuti. Volevo prendere la metro, era molto comoda, mi lasciava proprio lì. Ho trovato che c'è lo chiuso. Una notizia per chi a Roma si sposta in auto: il comune ha assicurato che rimarranno aperte per tutta la giornata le zone a traffico limitato del centro storico. E se la capitale sta per lasciarsi alle spalle lo sciopero di Filt CGL e CISL UIL per il nuovo contratto della mobilità, in altre città i disagi stanno per iniziare, lo ricordiamo ancora una volta. È così a Firenze, dove i mezzi si fermeranno a partire dalle 17. Poco più tardi toccherà a Torino. A Milano stop di autobus e metropolitana dalle 18 alle 22. Infine a Bologna, Cagliari e Genova lo sciopero termina nel pomeriggio. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Maria Chiara Grandis. Sin qui i disagi dello sciopero. Intanto Arnold Italia chiude per smog. La notizia, la conferma è arrivata proprio poco fa. E allora noi ci facciamo raccontare tutto in diretta da Stefano Totoro. Stefano. Sì, buongiorno. 80 comuni di 5 regioni del nord il 28 febbraio spegneranno i motori delle auto. L'iniziativa è partita dai comuni di Milano e Torino, era già stata annunciata nei giorni scorsi, ha raccolto una grande adesione nel territorio padano ed è stata presentata poco fa qui a Palazzo Marino, sede del comune di Milano, dal sindaco. Ci siamo arrivati dal sindaco di Torino e presidente dell'ANCI Chiamparino, erano presenti appunto i rappresentanti sindaci e assessori di 80 comuni di Piemonte Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Liguria, ma sentiamo come è andata l'adesione dalle parole del presidente dell'ANCI Sergio Chiamparino. Fra i comuni presenti qui tutti hanno aderito, il comune di Verona ha detto che avendo già programmato da mesi un'iniziativa per questa domenica non ritenere di poterla smontare e credo che non gli si possa che dare ragione, però nella sostanza mi pare mi possa dire che c'è un'unanimità, cioè tutti quelli presenti hanno aderito alla nostra proposta. L'iniziativa serve soprattutto ad attirare l'attenzione dei media e l'attenzione della popolazione, ma i comuni chiedono risorse al governo per porre rimedio ai problemi legati all'inquinamento. Fra queste misure una deroga al patto di stabilità e poi la proposta di aumentare alcuni dei pedaggi delle tangenziali urbane. Modalità e tempi del 28 febbraio verranno decise da comune in comune. Per il momento è tutto, a voi. Grazie Stefano Totoro, noi parliamo di Libri del Campiello, lo facciamo in diretta con Silva Menetto. Silva. Buongiorno, in effetti la primissima novità che vi devo dare è quella del nome del presidente della giuria dei letterati del premio Campiello, che sarà il regista Giuseppe Tornatore. Un'altra new entry è lo scrittore Giordano Bruno Guerri, che assieme agli altri 9 giurati dovrà stabilire il 22 maggio prossimo quale sarà la cinquina dei finalisti che poi concorreranno al Super Campiello, il premio che sarà assegnato poi il 4 settembre nel corso della serata di gala al Teatro La Fenice di Venezia. Il Campiello, lo sapete, è il premio letterario istituito dagli industriali del Veneto nel 62 e intanto già fa segnare un'importante novità anche con lo sbarco del Campiello Europa a Londra. Il premio verrà assegnato il 15 maggio, è un premio che è stato ideato per promuovere la letteratura italiana oltre i confini nazionali e poi c'è da sottolineare anche il sempre maggiore successo del premio Campiello Giovani che cresce in maniera esponenziale. Quest'anno sono arrivati ben 500 racconti da ragazzi di tutta Italia. Dunque, dicevamo, dopo la designazione della cinquina dei finalisti per quello che riguarda il Super Campiello, come sapete la parola passerà alla giuria popolare, che è la caratteristica stessa del premio Campiello, 300 persone scelte in tutta Italia che avranno tutta l'estate poi per leggere e per votare il libro che andrà a vincere proprio nella serata del 4 settembre alla Fenice. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Silva Menetto, è tutto anche per questa edizione. Ringrazio in regia Pietro Lacorte, vi lascio in compagnia di Italia in Controluce, il GR torna alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.